in primo piano. Martedì 30 agosto, ebbene sì, non c'è giornale che non apra sul tema della nuova manovra partorita ieri in questo lungo vertice. Vediamo i titoli intanto, prima di concentrarci sulle novità. Al Sole 24 Ore, stop sull'IRPEF, mini stretta sulle pensioni. Per il Corriere della Sera, niente super prelievo, misure sulle pensioni. Repubblica, via la supertassa, stretta sulle pensioni. Per La Stampa, lo stesso identico titolo, via la supertassa, stretta sulle pensioni. Il Giornale, niente nuove tasse, ha vinto Berlusconi. Per Libero, vittoria, niente tasse. Mentre il Fatto Quotidiano la vede così, la buffonata, fingono di tagliare le province e i parlamentari con legge costituzionale, ovvero chissà quando, la casta è salva. L'Unità, giù le mani dai comuni. Per il Manifesto, coalizione da Tiffany, il governo non tocca i ricchi e gli evasori pagano i soliti noti. Per il Messaggero, manovra stretta sulle pensioni. Così il Quotidiano Nazionale, stretta pensioni, supertassa addio. Il Secolo XIX, il governo mette mano alle pensioni, mentre il Riformista traduce tutto con un titolo, il pasticcio. Vabbè, allora, avete capito, si toccano le pensioni, scompare questa supertassa o il contributo di solidarietà a 90.000 euro, anche se lo diciamo subito, poi vedremo i dettagli più avanti nella seconda parte dopo le 7.30. Questa sono che è una notizia che farà piacere a tutti i nostri ascoltatori. La supertassa scompare, ma non per i parlamentari. I parlamentari per loro se la sono mantenuta, un piccolissimo gesto. E dunque via la supertassa, il prelievo per chi guadagna oltre 90.000 euro del 5% e per chi guadagna oltre 150.000 euro del 10% non c'è più nella nuova manovra, ma per i parlamentari rimane. E attenzione, un emendamento della Lega vuole mantenerla anche per gli sportivi, soprattutto per i calciatori, e addirittura doppia. Quindi i parlamentari la mantengono, i calciatori forse l'avranno raddoppiata, così lo sciopero lo pagheranno salato. Allora, però, le segnalazioni da cui voglio partire. La prima, fa un po'... casca un po' a fagiolo, no? Con la notizia di ieri, con quello che tratteremo poi nel nostro sondaggio. Il paese dei bambini obesi, l'Italia è prima in Europa. L'alimentazione dagli anni 50 è cambiata la dieta, è ridotta l'attività fisica, racconta il Corriere della Sera pagina 33 con Adriana Bazzi. A 8 anni in Italia un bambino su 3 è grasso. Racconta anche di questa scena, aeroporto di Linate, sabato scorso, una coppia italiana con una bambina di 2-3 anni attende l'imbarco per Parigi, il padre prende un biberon, lo riempie a metà d'acqua e metà di Coca-Cola e via, lo dà al bambino che ovviamente gradisce. Questa la denuncia anche dei medici italiani, a dire sono anche i comportamenti, le abitudini. Incide anche l'educazione, dicono. Il problema è anche culturale. I figli di persone senza titolo di studio hanno il doppio di probabilità di essere obesi rispetto ai figli dei laureati. Per la verità, medici che dicono tassare, come è stato fatto in Francia, le bibite gassate non è la strada giusta, non è la strada maestra. L'educazione alimentare è la strada più giusta. Però, insomma, di questo noi poi ne parleremo alle 8.30, no? Perché è interessante l'approccio statalista dello Stato che vuole insegnare le abitudini alimentari e per questo arriva a punire con una tassa chi utilizza alcuni cibi considerati junk food e chi invece dice ma insomma la libertà anche di potersi scegliere il cibo e magari pagarne le conseguenze, avere le abitudini alimentari che si vuole, non deve essere limitata soprattutto con una tassa dallo Stato. La seconda segnalazione è dalla Stampa a pagina 25 con una proposta di legge dell'onorevole Gabriella Giammanco del Popolo della Libertà. Cani e gatti in casa, vietato vietare. Che cosa ha fatto l'onorevole Giammanco? Se la prende con tutti quei regolamenti condominiali che magari vietano di tenere gli animali domestici in casa. Eccola qui la proposta di legge per cancellare tutti quei regolamenti condominiali contrari a chi vuole tenere un animale in casa. La deputata è la stessa che si oppone ai circhi con gli animali, è la prima firmataria in una legge in tal senso, è colei che ha fatto modificare il codice della strada per obbligare al soccorso dei quattro zampe feriti sull'asfalto. Adesso se la prende coi regolamenti condominiali, se la legge Giammanco verrà approvata, via libera, cani, gatti, conigli, cavie e tutti gli altri animali che ormai abitano le case degli italiani. Ci sono almeno in Italia 45 milioni di animali, 7 milioni di cani, quasi 8 di gatti, il doppio di pesci, 12 di uccellini e poi 10.000 i serpenti dichiarati, mentre 3.000 leoni, leoni, 3.000 leoni, tigri, ghepardi, nelle case degli italiani, guardate che questo sono dati ufficiali. E c'è anche un'intervista, la stampa intervista Gabriella Giammanco, lo fa Antonella Mariotti, a pagina 25, tra l'altro si è anche fregiata del titolo di Miss Parlamento, almeno in quest'articolo della stampa. Una battaglia difficile, ma dice: mi sono sempre interessata a questi temi, faccio parte del comitato ministeriale Animal Friendly col ministro Brambilla. E poi dice, insomma, basta questi regolamenti condominiali, non c'è nessuna legge che vieta la possibilità di tenere gli animali domestici. Allora con questa norma, se verrà approvata, non si potranno più avere i regolamenti neanche imposti dal costruttore dei condomini. E poi racconta questo straordinario episodio. L'onorevole Giammanco, io ho avuto non solo cani ma conigli, criceti, insomma non è inusuale. E poi ecco qui, una mia amica, magistrato, aveva un'oca in famiglia. E si arrabbiava anche molto quando sentiva appellare una donna oca, per dire che era stupida. Perché diceva, sapete che c'è? L'oca è più intelligente anche di un cane. Quindi basta dare delle oche alle donne che ritenete stupide. Cerchiamo di capire attraverso la lettura dei giornali come cambia la manovra, e cambia in maniera strutturale, cambia in maniera decisiva. Certo, le novità che vengono messe in primo piano dai giornali sono queste. Via la supertassa, questo contributo di solidarietà non ci sarà più. Si modificano invece le pensioni, non viene toccata l'IVA, questo si diceva ieri al vertice, invece non verrà toccata almeno per il momento all'IVA. Vengono ridotti i tagli ai comuni, vengono salvati i comunelli, come vengono definiti quelli sotto i 1.000 abitanti, anche se devono accorpare i servizi. E poi vabbè, c'è la promessa di eliminare tutte le province, la promessa di dimezzare i parlamentari, con un disegno di legge costituzionale che per questo ha un iter abbastanza lungo, complicato, complesso, di almeno un paio d'anni circa. Una promessa, va bene, e ne abbiamo sentite tante, speriamo sia la volta buona. Allora, intanto vi segnalo, su Sole 24 Ore ci sono tutti i dettagli con diverse pagine dedicate appunto alle novità della manovra. Dopo 7 ore di vertice di maggioranza, questo sorta di conclave, come lo definisce il Sole, nella residenza del premier Berlusconi, si è concluso con questo documento che annuncia appunto l'abolizione del contributo di solidarietà, una mini stretta sulle pensioni. Che cosa cambia soprattutto sulle pensioni? Beh, il calcolo per il raggiungimento degli anni di anzianità non dovrà più tener conto degli anni di servizio militare prestato e degli anni universitari. Questo è il succo, 40 anni di lavoro effettivi. Questo bisogna fare per maturare l'anzianità, racconta Marco Rogari a pagina 6. Dal 2012 il pensionamento di anzianità per via del solo canale contributivo sarà possibile dunque esclusivamente con 40 anni effettivi di servizio, vale a dire che gli anni collegati alla laurea e al servizio militare riscattati fino a oggi e anche in futuro non potranno più essere utilizzati per arrivare al tetto dei 40 anni di contribuzione. Mentre continueranno però ad essere validi a fini del calcolo dell'importo dell'assegno previdenziale. Questo intervento che cosa garantirà? Garantirà risparmi per circa 500 milioni nel 2013, 1 miliardo nel 2014, in tutto 1,5 miliardi, mentre nel 2012 la misura non produrrebbe risparmi per effetto della già prevista finestra unica per le uscite, con conseguente slittamento all'anno successivo dei pensionamenti. Dunque questa è la mini stretta sulle pensioni per calcolare gli anni di anzianità, gli anni riscattati con della laurea, legati alla laurea e al militare, non potranno più servire. Tanto che come dire, Luigi Angeletti della Will, intervistato dalla Stampa, pagina 4, dice: vuole una battuta di sintesi su questo, è la fine delle pensioni di anzianità. D'ora in avanti nessuno, considerando l'età in cui si inizia a lavorare e gli anni di contributi necessari, andrà più in pensione prima del tempo. Come definirla, una stangata, una stangatina o che cosa? Chiede Raffaello Masci della Stampa. E risponde Angeletti: stangata no, direi uno sgarbo, un graffio, un dispetto. Questo sì, è stata cambiata una regola mentre il gioco era aperto. Qualcuno si era già fatto i suoi conti per andare in pensione quest'anno, l'anno prossimo e così via. E adesso il quadro gli salta solo perché alcuni anni che si era regolarmente riscattato coi suoi soldi non vengono più calcolati. Non è una cosa da poco, ma devo dire che hanno sempre fatto di questi scherzetti. Sempre. Questo non li giustifica, ma è così. Chi sarà colpito da questo provvedimento, risponde Angeletti, chi ha iniziato a lavorare negli anni 70 e si trova alla vigilia del pensionamento, più anni di lavoro e nessun beneficio economico, e poi i maschi ovviamente che hanno fatto il militare. Questo Angeletti, che dunque parla di sgarbo, di graffio, di un cambiamento di regole in corso. Questa è per quel che riguarda la ministretta sulle pensioni. Certo che però l'altro tema invece è anche il fatto che sia saltata questo contributo di solidarietà. Come detto, però, lo ribadisco, il contributo di solidarietà salta per tutti, ma non per i parlamentari che se lo sono mantenuto. E poi c'è questo emendamento leghista che prevede invece per i calciatori o comunque per gli sportivi di raddoppiarlo. Dunque, contributo di solidarietà doppio se passa l'emendamento per i calciatori. E invece completa l'abolizione del contributo di solidarietà sui redditi più elevati, scrive sempre Marco Rogari, questa volta a pagina 3 del Sole, con la sola eccezione appunto dei parlamentari. Poi riduzione di 3 miliardi dei tagli a carico degli enti locali, Robin Hood tax inclusa, salvataggio dei piccoli comuni, questi gli assi portanti del faticoso accordo sulle modifiche raggiunto. Come detto, per le province, invece della prevista abolizione, si procederà alla soppressione totale con disegno di legge costituzionale. Insomma, prima o poi, prima o poi ci riusciremo. Allora, però, a parte le novità, ci sono due articoli che mi hanno molto colpito, uno sul Sole 24 Ore e uno l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera sulla questione delle coperture, perché sul Sole Dino Pesole si chiede a pagina 4 e chiede la questione delle coperture. Allora, ci sono state queste modifiche, il taglio della la cancellazione del contributo di solidarietà ora porterà, scrive Dino Pesole, con una soppressione al venir meno di un gettito consistente, vale a dire 3,8 miliardi nel triennio 2012-2014. Per gli enti locali si prospetta una riduzione dei tagli per circa 2 miliardi nel biennio, mentre la versione originaria del provvedimento, se incrociata con gli effetti della manovra di luglio, garantisce risparmi per 6 miliardi nel 2012 e 6,4 miliardi annui nel biennio successivo. Insomma, raggiunto l'accordo politico, ora occorre far quadrare i conti, scrive Pesole, e l'esercizio si annuncia tutt'altro che agevole, poiché dai primi calcoli effettuati alla luce delle misure concordate nel lunghissimo vertice di Arcole, la copertura va individuata per non meno di 4 miliardi. E cioè, vale a dire, queste modifiche poi, se si vuole tenere i saldi invariati, come la maggioranza dice bisogna assolutamente tenere, come l'Europa ci chiede, vuol dire: dove troviamo allora questi soldi che vengono meno con queste modifiche? Beh, si punta a colpire che cosa? Le società di comodo, con insomma i tentativi di colpire l'evasione e l'elusione fiscale. Su questo si concentra anche il Corriere: caccia del fisco ai beni di lusso nascosti in società. Le stime sono 35.000 le imprese coinvolte, questo si legge a pagina 3. Insomma, il tentativo di colpire tutte queste società, le cosiddette società di comodo. Anche Dario Di Vico, in prima pagina del Corriere della Sera, dall'editoriale esemplificativo fin dal titolo, attenzione ai saldi. Scrive Di Vico: le contraddizioni non mancano. Aver impacchettato la riduzione dei parlamentari e l'abolizione delle province in un disegno di legge costituzionale sa di rinvio e di beffa nei confronti dell'opinione pubblica. E quanto al fisco, non è stata la Lega a condurre una campagna di delegittimazione di Equitalia invitando artigiani e commercianti a cacciare in malo modo gli esattori fiscali? E ora è la stessa Lega a chiedere all'Agenzia delle Entrate di farsi protagonista della lotta all'elusione. Tutto sommato si tratta però di questioni accessorie. Più rilevante sarà capire già da oggi quanto pesano le varie poste. I saldi sono stati veramente rispettati? Chiede Di Vico, perché se noi, magari solo per deformazione professionale, stiamo attenti agli slittamenti di opinione all'interno dei partiti, non è detto che i mercati finanziari abbiano lo stesso gusto cronistico. Sarà decisivo dunque spiegar loro i dettagli delle novità pattuite da Arcore affinché non pensino di trovarsi di fronte a una manovra ballerina i cui contenuti cambiano con grande velocità e solo per il prevalere delle posizioni del Premier o del Ministro del Tesoro. Insomma, in sintesi, i mercati poi ci guardano. Noi magari appunto in Italia registriamo le dichiarazioni politiche e ce ne sono, ma poi i mercati valuteranno la manovra nei numeri. E le valutazioni politiche ci sono, e basta vedere i titoli per esempio di Giornale Libero, i due giornali più vicini, i due quotidiani più vicini politicamente al governo. Ha vinto Berlusconi, questo titola il Giornale con Vittorio Feltri che fa questa sintesi molto secca. Silvio Berlusconi ha vinto. Il governo non metterà le mani nelle tasche degli italiani e, per dirne una, il cosiddetto contributo di solidarietà che avrebbe dovuto colpire i redditi superiori a 90 e 150 mila euro è stato cancellato. Esultano così i 500.000 vera e propria elite lavoratori di lusso cui sarebbe stato dimezzato lo stipendio. E Libero anche, vittoria, niente tasse. E Berlusconi, infatti, nei commenti così estrapolati, strappati dai retroscena della politica, direi, avrebbe detto: la manovra va nel senso che auspicavo, è andata come volevo. Questa frase, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani, è riportata per esempio dal Corriere con Paola Di Caro a pagina 6, ma anche Repubblica a pagina 3. Il Cavaliere canta vittoria, è riuscito in qualche modo a stoppare Giulio Tremonti, che dice, secondo Repubblica, secondo Carmelo Lopapa, avrebbe detto Berlusconi: l'avete visto, sembrava un agnellino, non pareva neppure lui, anche se Tremonti per la verità ha rilasciato un comunicato a fine giornata dicendo l'incontro è andato molto bene. Effettivamente Tremonti, che era contro l'innalzamento per esempio dell'IVA, su questo punto ha vinto, però certo ha dovuto cedere sulla questione del contributo di solidarietà. Altri che dicono di avere vinto e stravinto sono i cosiddetti frondisti del Popolo della Libertà, capeggiati da Antonio Martino, intervistato da Mario Aiello sul Messaggero a pagina 3, dice: qualcosa è stato fatto, eccolo il successo di noi frondisti, così Silvio non ha perso la faccia. Dice Martino: ha cambiato Berlusconi la manovra senza irritare Tremonti, che è un personaggio permaloso. Il risultato, quando il Premier accettò obtorto collo il decreto dicendo il mio cuore sanguina, io gli dissi: Silvio, se resta così com'è, tu perdi la faccia. E io non voglio perderla, perciò non voterò questa manovra. Vi siete salvati entrambi, insomma, penso proprio di sì. Ora vediamo cosa accadrà in Senato. Insomma, Antonio Martino dice: beh, meno male, ce l'abbiamo fatta. Rimane tutta questa questione dei tagli alla casta. Ripeto, la promessa è questa, ma quante ne abbiamo sentite di promesse? Stavolta tutto stralciato, le province sono per il momento tutte salve, i comuni sono tutti salvi, i comunelli sono tutti salvi, ma la promessa è quella di fare rapidità all'iter del progetto di legge di modifica costituzionale che già è depositato, quello Calderoli, per cancellare tutte le province, per dimezzare i parlamentari. E siamo al 30 agosto, cari ascoltatori, segnatevi la data, la promessa c'è, nel 2013 scommettiamo un euro e poi vediamo chi lo vince. Per il Fatto Quotidiano il titolo è questo: la buffonata, Fingono di tagliare le province e i parlamentari con legge costituzionale, ovvero chissà quando. La casta è salva, ne scrive Carlo Tecce a pagina 2. Province e poltrone, la casta non si tocca. Mentre Repubblica fa i calcoli onorevoli, dimezzati, 130 milioni di risparmi, necessario cambiare la Costituzione, supertassa per deputati e senatori, questa è rimasta la supertassa appunto per deputati e senatori e dunque rimane. Mentre il ministro Calderoli, colui che appunto ha voluto questo decreto costituzionale, disegno di legge costituzionale, intervistato a pagina 4 di Repubblica, da Alberto D'Argenio dice: ora la manovra è sostenibile, non abbiamo ricattato nessuno, siamo soddisfatti, è stata una bella giornata. E poi dice: sono mefistofelico, ribadisce questo emendamento al Senato per il quale i calciatori e tutti gli sportivi professionisti pagheranno il doppio rispetto a quanto originariamente previsto, che peraltro vuol dire anche con sportivi che guadagnano non certo come i calciatori, perché certo non si può fare una distinzione solo per i calciatori. In sintesi, dice Calderoli, il contributo di solidarietà per i cittadini è sparito, resta però per i parlamentari, e visto che la casta ha deciso di tassarsi, tassiamo anche le altre caste. Dunque per loro, i calciatori, o meglio tutti gli sportivi professionisti, resta il contributo sopra i redditi da 90.000 e 150.000 euro, ma le aliquote sono doppie, 10% e 20%. Sono davvero mefistofelico, così dice Roberto Calderoli. E sulla questione invece delle province: non abbiamo ceduto, la loro cancellazione va in direzione ultrafederalista, perché le loro competenze passeranno alle regioni. Notate l'uso del verbo futuro, passeranno, quando le cancelleremo. Se le cancelleremo, se le cancelleranno, aggiungo io. Voglio concentrare ora su quella vicenda che è diventata anche epocale nella famosa battuta che l'ex ministro Scajola fece nella celebre conferenza stampa quando ci fu la questione della casa, il Colosseo di via Fagutale con vista Colosseo, perché ricordate, no, la famosa casa pagata, fu tradotto così, pagata a mia insaputa. Ebbene, oggi dai giornali la notizia è messa in ampio risalto: Scajola è indagato per finanziamento illecito, l'abbiamo sentito anche in GR24, finanziamento illecito ai partiti, leggo dalla cronaca del Corriere della Sera. In qualità di parlamentare e ministro, allora Claudio Scajola non poteva accettare alcuna somma da privati senza violare la legge. Eppure i 900.000 euro per l'acquisto dell'appartamento di 180 metri quadri nella prestigiosa via del Fagutale di fronte al Colosseo furono versati da un privato, vale a dire Diego Anemone, colui che stava facendo incetta di appalti per grandi eventi, appalti cui costi lievitavano ad arte, per ottenere i quali l'imprenditore era pronto a beneficiare una volta un ministro, nel suo elenco anche Pietro Lunardi, un'altra un prelato. Insomma, la notizia è questa, che Scajola è indagato. Tra l'altro Scajola, che si dimise, ricordate, da ministro, ha sempre detto: non sono mai stato indagato, non sono mai stato ascoltato. Ora la notizia appunto e la sua posizione cambia. Ovviamente, come potete immaginare, visto che ci fu quella famosa frase, se dovessi acclarare che qualcuno ha comprato casa a mia insaputa, non potrei stare in quella casa, la venderò subito. Beh, insomma, ci fu quella battuta epocale che ora scatena un po' i titolisti dei vari quotidiani che fanno un po' il verso, no? A quella battuta, per esempio, in prima pagina di Libero: Scajola indagato, ma non a sua insaputa. Oppure il Fatto Quotidiano titola così: adesso lo sai? Scajola indagato a Roma per la casa al Colosseo, l'accusa è finanziamento illecito ai partiti. Tra l'altro vi segnalo due articoli, uno è quello di Goffredo Buccini a pagina 11 del Corriere della Sera. La battuta sul pagamento a mia insaputa fece il giro del paese, una battuta: se dovessi acclarare che la mia abitazione è stata pagata da altri senza saperne io il motivo, annullerei il contratto d'acquisto. Il problema è questo, come racconta Virginia Piccolillo, che tra le varie dichiarazioni di Scajola in un anno ci fu anche quella ricordata da Repubblica, e cioè: vendo la casa al Colosseo e la differenza tra quello che ho investito io e quello che è stato pagato a mia insaputa lo do in beneficenza. Ha venduto la casa al Colosseo Scajola? La risposta la dà il Corriere. La risposta è no, non l'ho venduta. Ma la casa è ancora in vendita, sono uscito da lì subito dopo aver dato le dimissioni, è vero, ci sono anche ritornato, sono stato via 3 o 4 mesi, poi ultimamente durante le trasferte a Roma sono rientrato, ma solo a dormirci. Insomma, Scajola, che tra le altre cose aveva detto venderò la casa, e invece dice non l'ho, effettivamente non l'ho ancora venduta, e anzi ci sono tornato ma solo per dormirci. L'unico quotidiano che riesce a intervistare Scajola in vacanza in Grecia è Il Secolo XIX, anche comprensibilmente, insomma, per vicinanza territoriale, visto che è ligure Scajola. Marco Menduni lo intervista a pagina 7, eccoci qua, si conferma che non sono corrotto. Così dice Scajola: nonostante la raccomandazione dell'avvocato, mi raccomando non faccio alcun commento, però Scajola qualche dichiarazione la fa. Sa cosa dico? Che è una scocciatura, certo che è una scocciatura, però non tutto il male viene per nuocere, finalmente sarà l'occasione per fare chiarezza. Una cosa però è evidente, già non si parla di corruzione, io non sono un corrotto. Questo fascicolo al momento non aggiunge né toglie nulla a quel che si sapeva. C'è un movimento di denaro che ha toccato l'operazione di acquisto della casa di Roma. A questo punto è davvero mio interesse chiarire una volta per tutte questa vicenda. Ho ampie spiegazioni da dare ai magistrati. Non sono mai stato ascoltato da nessuno, non ho mai dato spiegazioni. Ora non vedo l'ora di poter consultare tutte le carte per ricostruire definitivamente da quel che è accaduto e poterlo spiegare. E poi sulla faccenda, sulla famosa battuta della, appunto, della casa a sua insaputa, dice Scajola: di questo aspetto non voglio proprio parlare. Certo, non posso dire di essere contento, ma se sarà l'occasione di chiarire definitivamente quel che è accaduto in quell'occasione, allora in qualche modo dico benvenga. Sono convinto di uscire con un'archiviazione che finalmente metterà la parola fine a questa vicenda. E sulle dimissioni Scajola dice: più di una volta mi son chiesto se ho fatto bene a dimettermi, ma ribadisco, quella che diedi allora è una spiegazione che, per quanto possa essere apparsa surreale, è la pura verità. E insomma, quindi Scajola ribadisce: la casa, se è stata comprata con soldi di altri, è stata comprata a mia insaputa. Questo è il dato di fatto. Uno sguardo alle notizie dall'estero, le troviamo, dalla Libia. Ah beh no, anche una battuta sul fatto, continua la vicenda Penati invece, per quel che riguarda, sempre per rimanere in ambito giudiziario, da registrare che Bersani dice: la prescrizione non ci piace. Quindi Bersani, segretario del PD, che di fatto dice a Penati, un altro del Partito Democratico, rinuncia alla prescrizione. E tra l'altro voglio ricordare che oggi da Oscar Giannino ci sarà il vice segretario del PD Enrico Letta, ospite alle 9, si parlerà, immagino, anche di questo, con Bersani che ha fatto anche questa battuta: se Berlusconi avesse fatto, quando è stato indagato, i passi indietro che ha fatto Penati, a quest'ora qua sarebbe a Comacchio. Questa è la battuta di Bersani su Berlusconi. Le notizie dall'estero, c'è sicuramente dalla Libia la notizia, ormai la conferma, che la moglie e i figli di Gheddafi sono in Algeria. Non si sa bene invece dove sia, non si sa assolutamente dove sia lo stesso Muammar Gheddafi, la famiglia però in Algeria, protetto da Bouteflika. Mentre la notizia che riguarda strettamente l'Italia è, come racconta Federico Rendina a pagina 22 del Sole, che è stata firmata ufficialmente l'intesa a Bengasi tra l'ENI e gli insorti. Dunque l'ENI rimane partner tutelato anche della nuova Libia del dopo Gheddafi, continuerà a guidare i pozzi di petrolio e metano bloccati dal conflitto e da sbloccare nei tempi più brevi grazie alle partecipazioni societarie che verranno sostanzialmente riconfermate. E il numero uno dell'ENI, Scaroni, viene anche intervistato da Repubblica, da Pietro Del Re, che si trova a Bengasi. Gheddafi, dice Scaroni, di certo nessuno lo rimpiangerà né in Libia né nel resto del pianeta. E alla domanda: ma insomma, quando era al potere facevate gli affari con lui? Non potevamo fare altrimenti, risponde Scaroni. La Libia era ed è un paese troppo importante per non trattare con chi lo dirigeva. Per fortuna le cose sono cambiate. Dunque Scaroni che guarda al futuro e ribadisce della Libia. Saremo ancora partner della nuova Libia controllata dagli insorti. Un'ultima notizia curiosa la troviamo dalla Stampa, pagina 18. Cosa succede a Bonn? Sapete che in Germania, se non lo sapete ve lo diciamo noi, la prostituzione è legalizzata, le prostitute devono pagare le tasse, però c'è una differenza tra le prostitute che lavorano nelle case e che quindi sono più controllate e pagano le tasse e quelle che lavorano in strada. Quelle che lavorano in strada sono un po' erranti, diciamo così. E allora Bonn che ha pensato di fare? Di mettere dei bei parchimetri per le prostitute. I distributori fiscali li chiamano a Bonn, per non discriminare le colleghe che lavorano a casa e che vengono tutte controllate e pagano le tasse. Ora, le prostitute che lavorano in strada devono mettere nel loro parchimetro 6 euro a notte, dalle 20:15 alle 6, pagano il loro spazio di lavoro, dal lunedì alla domenica, pagano questa quota, hanno il parchimetro, hanno il ticket, espongono il ticket evidentemente o mostrano il ticket e possono prostituirsi regolarmente. Le tasse le abbiamo pagate così, col parchimetro della prostituzione, anzi col distributore fiscale. Ci fermiamo per il giornale radio.